Story Time. Evoluzione Radio. Bentornati e bentornati amici e amiche da Marco Ferraro Speaker con i ragazzi del progetto Troppi Trip, Alex Tizze, Jacopo Fonda e Riccardo Ascone. Ben arrivati ragazzi. Grazie. Bene. Allora si parte subito con questa bellissima bandiera, con questo bellissimo slogan Troppi Trip, progetto sicuramente di una certa peculiarità che andremo a scoprire come sempre con la nostra bella forma dialogica, con la nostra bella conversazione. Ma prima di partire vi ricordo di venire a visitare le nostre pagine social Facebook Storytime Official oppure hashtag Storytime Veneto, Instagram Storytime _ Official oppure hashtag Evoluzione Radio. Chi vuole cominciare? Alex, Jacopo o Riccardo? Inizio. Ok, inizio. Perfetto. Allora, Alex, giusto? Sì. Benissimo. Come si parte con l'idea di concepire il progetto Troppi Trip, Alex? Allora, abbiamo iniziato tutto dal liceo artistico. Io ho la felpa proprio del Max Fabiani di perfetto. Gorizia. Perfetto, quindi non si sbaglia, quello è. Sì, ok, sì, questo. E abbiamo iniziato conoscendoci in classe. Abbiamo visto che tutti e tre avevamo molta affinità dal punto di vista artistico, cioè ci capivamo anche senza parlarci, riuscivamo comunque a intenderci e... telepaticamente. Sì. Ok, perfetto, ci sta anche quello, una forma anche di comunicazione. Sì, certo. Sì. E tutti e tre abbiamo capito che volevamo fare musica e arte. E di arte abbiamo iniziato subito a fare delle felpe, in questo caso abbiamo fatto proprio quelle del liceo artistico. Abbiamo fatto anche molte magliette personalizzate. Vedete, anche indossate. Esatto, esatto, grazie, esatto. Fate come nelle televendite, così, questa cosa qua, vedete? C'è questa cosa, no, molto interessante. Come il numero 4 per... esatto, esatto. Poi in sovraimpressione arriveranno i numeri per andare il codice QR, esatto, e tutto il resto. Quindi Alex, dicevi, fondamentalmente vi siete già trovati con una grande intesa, semplicemente si trattava di partire col piede giusto. Sì. Il piede giusto l'avete trovato. Sì, okay. L'abbiamo trovato e poi... abbiamo proseguito così su questa strada, abbiamo trovato sempre più idee man mano che proseguivamo. Cioè abbiamo collaborato con scuole, artisti, professionisti, aziende. Ok. Quindi abbiamo anche fatto cose diverse, cioè siamo passati anche a fare loghi, sempre con uno stile nostro, molto... Okay. Ok, distintivo. Ok. Quindi... ma la cosa interessante diventa, per esempio, Jacopo, l'idea di trovare un destinatario, perché voi vi siete già trovati con l'intesa, ma bisognava trovare anche una stessa lunghezza d'onda con chi poteva essere colui o colei o l'azienda, l'impresa che avrebbe sposato la vostra immagine proposta. Beh, allora noi abbiamo iniziato particolarmente, come specificava Alex, dal nostro liceo. Sì. E avendo la fortuna che fosse un liceo artistico, che quindi spingeva su questo tipo di cose, moltissimi dei nostri compagni più grandi o più piccoli, certo, per squadra, insomma, esatto, sì, così, okay. Apprezzavano questo tipo di prodotti, questo tipo di idee, e sono stati i nostri primi veri clienti che ci hanno effettivamente fatto capire: ok, la roba che fate piace. Certo, certo. E a quel certo. punto noi abbiamo iniziato quindi collaborando con le prime cose nella scuola e il nome si è iniziato a spargere. Noi abbiamo, come diciamo, città natale Gorizia, peraltro capitale della cultura, anche quest'anno certo. faremo qualche evento lì. Certo. E lì abbiamo iniziato a fare anche un paio di eventi. Abbiamo collaborato ad alcuni concerti, siamo andati con bancarelle a vendere, collaborato con artisti e cose di questo tipo, e da lì poi un attimo è nato quella che può essere il nostro target, mettiamola così, dei nostri prodotti, che alla fine è molto vago, perché in modo abbastanza sincero abbiamo visto ragazzi prendere le nostre felpe, quindi dai 15 ai 20 anni, certo, ce come per anche tutti. Persone molto più adulte, cioè noi abbiamo effettivamente venduto delle felpe come feste a degli anziani, okay. perché effettivamente gli piaceva tutto questo mondo colorato, questa visione che avevamo del mondo, che è in modo forse anche un po' inaspettato da parte nostra, perché non pensavamo di riuscire questa prendere... esplosione, insomma, diciamo sì, così. Esatto, questa esplosione, però una sorpresa apprezzata, molto chiaro, chiaro, chiaro. Molto felice. Riccardo, perché Troppi Trip? Il nome? Diciamo che è partito abbastanza molto a caso. Ok. Non c'è stato un motivo specifico per cui il nome okay. è uscito. Era un brainstorming e diceva cosa facciamo, cosa diciamo. Sì. Ok. Abbiamo riso del nome e abbiamo detto è il nome giusto. Ok. Ma quindi questi Troppi Trip così. Distribuito concretamente in felpe e poi in che cosa? Quali sono gli altri prodotti? Quali sono le altre magliette, sfaccettature? Illustrazioni, si fa anche video, animazioni 2D. Ok. Insomma, gadget adesso, che sono le ultime robe uscite, abbiamo fatto capellini, certo. esatto, borse, capellini, giacche. Certo. E tutti questi prodotti nascono da una ispirazione, Alex? Cioè, o partono da qualcosa di pregresso? Perché anche qui è interessante capire la creazione. Allora, partono sicuramente da tutti e tre, cioè da solo nessuno di noi tre riuscirebbe a fare questo. Certo. Ne abbiamo parlato anche prima, sì. Io non sarei qui a quest'ora. Nessuno Chiaro. Di noi tre. Certo. Sì. Ci ispiriamo soprattutto alle nostre esperienze passate, uh-huh. e da lì creiamo illustrazioni di qualsiasi genere. Uh-huh. L'importante per noi è esprimere un senso di libertà artistica, quindi non vogliamo chiuderci in una bolla grigia, cioè vogliamo espanderci, provare cose nuove ogni giorno. Sì, non che i vostri prodotti sono colorati, quindi comunque all'estremo, insomma, si questo rispecchia, ci sta. Questa è la nostra visione. Sì. Certo, certo. Visione, Jacopo, che si traduce anche in eventi e progetti all'infuori dei prodotti, giusto? Me ne parli un attimo? Esattamente. Alcune delle cose più importanti che abbiamo fatto sono stati i classici, diciamo, eventi da brand, quindi la classica bancarella dove si vendono i propri prodotti, sì. però ci siamo spinti anche oltre. Okay. Quello che abbiamo deciso di fare, essendo, come anche accennavamo prima, appassionati anche di musica, è organizzare dei veri e propri eventi. In questo caso quello più grande che abbiamo fatto è stato fatto a Grado, una città del Friuli, certo, una piccola isola. Certo. E lì noi cosa facevamo? Abbiamo contattato tutti gli artisti che conoscevamo, i musicisti proprio. Ok, ok, a prescindere dall'estrazione, musicisti, sì, o attori o performer, abbiamo eccetera. Abbiamo fatto, esatto, di tutto. Okay. Infatti ci sono stati principalmente musicisti, lettura di poesie e attori che hanno fatto delle performance attoriali. Uh-huh. E organizzavamo questa serie di eventi, perché sono stata una serie, di domenica mattina, dove chi voleva arrivava lì, c'è, in questa piccola zona durante un mercato, e poteva suonare con noi, poteva fare il suo pezzo teatrale, certo, poteva collaborare. Lo stand up performing, praticamente. Esatto, okay. Di qualsiasi cosa. Lì, devo dire, è stato molto bello, perché abbiamo avuto, uno, la possibilità di farci conoscere, che quello fa sempre comodo, ma di conoscere anche tante altre persone. Perché giustamente magari arrivava un artista e diceva: ah, guarda che figo l'evento, e chiamava l'amico. Certo, certo, certo, certo. Questa parola è assolutamente imbattibile. C'è anche magari qualcuno che passava, musicista, si è fermato e ha chiesto: posso suonare la chitarra? E partono le jam session praticamente. Esattamente. Certo, certo, certo, certo. E quindi in questo poi avrà un seguito, questo bel motore, avrà un seguito questo entusiasmo? Ci piacerebbe riportarlo proprio quest'anno, come accennavo prima, che Gorizia è capitale della cultura, che quindi organizzeranno vari eventi. Adesso non sappiamo se specificatamente di nuovo a Grado, ma riproporre, diciamo, questo format in cui collaborare, perché una delle cose più importanti, anche quando si ha, diciamo, un po' più di visibilità come artisti, è quella di chiamare altri artisti. Certo, certo, certo, fare una bella rete in questo. Esatto. A livello di prodotti, Riccardo, c'è, se c'è, un prodotto di punta di cui andate fieri, un cavallo di battaglia? Devo dire il mio personale, sì, certo, è stata la seconda felpa che abbiamo fatto, che è quella di Space Boy, si chiama, ed è la scritta Troppi Trip davanti, sì, la felpa con colore nero e mi pare rosa. Ok, insomma, un paio di colori. Sì. E anche dietro il disegno dell'omino in mezzo allo spazio che sta cavalcando, c'è, diciamo, un razzo che sta, fantastico, navigando, molto bene, di questi pianeti. Un bene. Piccolo aneddoto su, sì, quell'illustrazione, sì, che, certo, diciamo, proviene anche dalla prima felpa che abbiamo fatto, dove c'era lo stesso personaggio, che a San Canzian dovrebbe esserci, sì, un murales effettivamente con questa illustrazione fatta, e da lì effettivamente è nata un po' l'idea, perché è leggermente diversa. Vedere per credere, andate. Esatto. Ok. E quindi in questo, Alex, per te invece? Per me, devo dire che anche a me piace molto quella felpa lì, perché secondo me rappresenta un po' il nostro modo di vedere le cose, quindi un po' tra le nuvole o nello spazio. Certo, una, certo, dimensione, no, diversa da quella più terrena. Più contesti, insomma, sì, l'arte è varia, quindi comunque anche, sì, in quello, sì, basta avere un proprio contesto per riuscire a dare sempre più alito a quella che è la parte della creatività. E per te invece, Jacopo? Allora, devo dire che quella lì, come illustrazione, avrà sempre un pezzo, okay, del mio cuore collegato. Apprezzo molto in verità quella che sto indossando oggi. Ok, che faccio anche, grazie. Aspetta, posso alzarti il cappuccio che si vede meglio? Sì. Ok, perfetto. Ok, che questa è, diciamo, sai che faccio come telemarketing? Che con le mani faccio così, okay, no? Tipo, ok, il prezzo è giusto, sai, quelle cose un po', ok. Bene, ok. Questa qua fa parte di una serie che abbiamo fatto uscire lo scorso inverno, composta da due illustrazioni. Questa qua, come avete visto, con una tigre, sì, e un'altra con un coccodrillo. Sì, coccodrillo. Ah, un coccodrillo, sì, esatto, esatto, esatto, esatto. E questa qua, diciamo, una delle nostre ultime uscite, perché quest'anno abbiamo fatto uscire quelle e un altro paio. Sì. E devo dire che le apprezzo molto, perché si vede un po' l'evoluzione che c'è stata. Quindi, andando a vedere magari le illustrazioni che facevamo all'inizio, come questo Space Boy, che particolarmente apprezziamo, abbiamo visto la nostra evoluzione artistica. Quindi si vede già un cambio anche di stile, che fa parte un po' della nostra visione, come dicevamo prima, di non chiudersi, non prendere una cosa e farla sempre uguale. Certo, certo, come si cambia noi cambia anche l'arte, esatto. Gioco forza. Certo, certo. Allora, carta e penna a mano, so sicuramente che vi abbiamo acceso la lampadina sopra la testa, la lampadina creativa, ma soprattutto anche la lampadina di curiosità per andare a dare una sbirciatina a questi nostri ragazzi. Troppi_trip, pagina Instagram, ma sicuramente già avete visto qua sotto la grafica che sta scrollando, ma intanto, insomma, ribadire questi concetti è importante. Abbiamo anche l'email di pubblicazione, l'email di contatto troppitrip.artists@gmail.com per approfondire l'argomento. Se avete anche delle richieste potete scrivere con la mail oppure potete anche mandare un messaggio in direct, che magari se avete qualche idea loro possono realizzarla, giusto? Detto molto schietto, molto netto, giusto Alex? Sì, siamo molto disponibili per collaborare, sì. Quindi anche se qualcuno vuole un nostro prodotto noi possiamo... farlo, possiamo anche fare prodotti personalizzati per molto bene, persona, perfetto, quindi... non avevo dubbi, quindi su questo non si piove, non si scappa. Ragazzi, è stato un piacere parlare con voi e un buon ritorno alle vostre attività, viva l'arte. Grazie mille. Alla prossima, allora. Alla prossima. Quindi salutando cordialmente i miei gritti ospiti, Alex Tizze, Jacopo Fonda e Riccardo Ascone di Troppi Trip, Marco Ferraro speaker, vi saluta, vi ringrazia, io vi ringrazio e vi saluto per averci ascoltato tutti e quattro fino a questo momento. Ci vediamo al prossimo incontro. Ciao ciao. Storytime, Evoluzione Radio.